9 in punto. Buongiorno, bentornati da Gianfranco Fabia. 9 in punto, oggi guardiamo in avanti, guardiamo all'autunno, un autunno che secondo qualcuno sarà caldo, secondo qualcun altro, il ministro Sacconi per esempio dice sarà un autunno freddo, un autunno in cui comunque, come ha detto ieri il governatore della Banca d'Italia Draghi, ci saranno alcuni segnali di ripresa. Si tratterà di mettere a frutto questi segnali di ripresa, di aiutare le imprese ad uscire dalla crisi. Ne parliamo oggi con Raffaele Bonanni. Buongiorno Bonanni. Buongiorno. Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, uno dei protagonisti del mondo del lavoro, uno dei protagonisti del sindacato, ha parlato nei giorni scorsi, è stato molto applaudito al meeting di Rimini, delineando le strategie del sindacato sui temi forti di quest'autunno: i contratti da una parte, i salari indubbiamente legati ai contratti, ma anche le prospettive del sindacato, le prospettive di una politica più generale dopo questa crisi che ha segnato e ha cambiato sicuramente un po' il mondo. Mi aiuteranno in questa intervista Raffaele Bonanni, Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. E il professor Carlo Della Ringa. Buongiorno professor Della Ringa. Buongiorno a lei, agli ospiti e a tutti gli ascoltatori. Grazie Carlo Della Ringa, ordinario di economia politica presso la Facoltà di Economia e Commercio della Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, commentatore di argomenti strettamente sindacali. Allora io vorrei appunto cominciare da Raffaele Bonanni, chiedendogli come vede l'autunno, come vede soprattutto la responsabilità del sindacato e dei lavoratori di fronte alla necessità di affrontare e di uscire dalla crisi economica. Raffaele Bonanni. Sì, quando l'altro anno, mi ricordo di questi tempi, dicevo ci saranno dei giorni molto caldi in autunno, io rispondevo che non saranno caldi ma saranno gelidi, perché partivo dal presupposto che quando ci sono difficoltà le persone, i lavoratori che hanno i piedi a terra capiscono, e più che andare verso soluzioni appunto cervellotiche si dimostreranno più in grado di collaborare, di costruire un sistema cooperativo in grado di affrontare i temi che poi abbiamo affrontato proprio in questo modo, non a caso, tutte le scelte che abbiamo saputo condizionare sono state scelte fatte sulla base di proposte del sindacato, comunque del sindacato che ha avuto interesse non a alzare il cappello in aria, ma a stare dentro i processi concreti per aiutare le persone, per aiutare le imprese. Non a caso, dicevo, tutte le proposte sono state fatte insieme da noi e gli imprenditori sul fatto di sostenere le imprese che non licenziavano, di sostenere i reinvestimenti, sul fatto di dividersi il lavoro, allora quando le aziende avrebbero diminuito il lavoro non fosse altro per la presenza minore di commesse, e di ammassare soldi per la cassa integrazione in deroga, perché ci sono, si sa, centinaia e centinaia di migliaia di persone, di lavoratori in migliaia e migliaia di aziende piccole e medie che non hanno copertura di ammortizzatori. E questa è stata la nostra strategia, è stata capita da lavoratori e imprenditori, c'è stata una collaborazione molto forte e tutto sommato, nonostante tutto, ci siamo abbastanza difesi. Perché dico questo? Dico che secondo me, soprattutto se è vero che siamo verso la fine e ci può essere qualche colpo di coda, perché le aziende sono stremate da commesse basse, da una sottocapitalizzazione, da una difficoltà insomma che hanno avuto con le banche, da una situazione che dura diverso tempo, possono subire un colpo di coda della crisi. Dobbiamo prepararci grosso modo nello stesso modo, cooperare e intervenire sulle vicende più scabrose attraverso molta serietà e molta cooperazione. Chiedo al governo di darci la possibilità di dire a ciascuno: nessuno perderà un reddito, e agli imprenditori che chiunque abbia intenzione ancora di lottare avrà un sostegno. Questo è molto molto importante per quella coesione che è importante sempre, ancora di più di questi tempi. Quindi cercare di salvaguardare il sistema produttivo e i redditi dei lavoratori. Io ricordo agli ascoltatori il numero verde 800 24 00 24 e il numero 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. Ecco, Bonanni, lei ha parlato di sindacato, però qualche problema all'interno del sindacato, qualche divisione c'è stata e resta. Vede in prospettiva un superamento di queste divisioni e in pratica la sottoscrizione anche da parte della CGIL di quell'accordo sui contratti che avete fatto? Ma è noto che c'è ancora qualche convulsione nella CGIL che, come si sa, non ha ancora deciso la sua natura, se continuare ad essere un sindacato antagonista o invece di imboccare la strada unitaria e la strada appunto di un sindacato partecipativo, di un sindacato riformista. Sembrava un anno e più fa che si volesse davvero portare avanti un'iniziativa unitaria molto forte, tant'è che ci sono stati documenti in questo senso e poi all'ultimo momento, perché ci sono presenze organizzate politicamente dentro quel sindacato che tirano dall'altra parte, io spero, proprio l'altro ieri attraverso un'intervista ho risposto a un'intervista che ho ritenuto positiva di Epifani, di avere la forza ma anche il coraggio di chiarire all'interno della sua organizzazione la natura stessa. Questa natura naturalmente si manifesta sulle vicende contrattuali, ha avuto un rigurgito e addirittura questo l'ha spinta a fare un passo indietro e naturalmente l'influenza anche nel leggere le situazioni socio-economiche come quelle che sto descrivendo, tant'è che l'anno scorso e ancora adesso si continua per certi versi a sostenere che in queste vicende bisogna solamente mobilitarsi. Sia chiaro, anche io penso che bisogna mobilitarsi, bisogna vedere che significa. Per me mobilitarsi significa intrecciare rapporti ancora più stretti con le imprese e difenderci. Per me mobilitarci in questo settembre significa che noi gli imprenditori andiamo nei luoghi simbolo dei nodi non sciolti delle infrastrutture, dell'energia, di tutti i punti che appesantiscono la ripresa italiana e denunciare la situazione in modo tale che il governo intervenga davvero, non a chiacchiere. Per quello che mi riguarda, in tutte le infrastrutture e nell'energia sono circa 30 miliardi di soldi già stanziati che non si devono spendere, che non si spendono, devono dominare dei commissari ad acta attingendo da un elenco di specialisti conosciuti, riconosciuti, seri, capaci, in modo tale che a loro si dà chiave in mano tutta l'opera da realizzare, in modo tale da uscire da questa situazione di secca. Per me la mobilitazione è questa, non strillare verso un qualcun altro che mi deve risolvere i problemi, già che i problemi già sono difficili da risolvere in momenti ordinari, figuriamoci in momenti straordinari come questi e per vicende che vengono persino dall'esterno. La mobilitazione per me significa una mobilitazione propositiva e cooperativa con tutti i soggetti in campo. Ecco Bonanni, in questa prospettiva però lo scegliere, l'insistere sulla strada della partecipazione, della partecipazione addirittura all'interno dei consigli di gestione delle aziende, non rischia di allargare il divario verso una CGIL che storicamente e culturalmente, come lei ha detto o lasciato intendere, è più sul fronte della conflittualità, del confronto, non dico forse più della lotta di classe, ma indubbiamente sul conflitto è basata molta della cultura della CGIL. Ora, questa posizione sua e della CISL di insistere, una posizione che peraltro non è nuova, è storicamente fondata, di insistere sulla partecipazione, non rischia di allargare il divario all'interno del sindacato? Ma può rischiare solo di aprire un dibattito salutare sulla natura del sindacato, sulla natura della democrazia e delle democrazie in Europa e nel mondo avanzato, sulla natura del sociale. Questo è un fatto molto molto importante. Noi rifiutiamo, lo sanno tutti, rifiutiamo il ribellismo, rifiutiamo il nichilismo, credo, spero che avanzi questa posizione dappertutto. Beh, chi rifiuta questo, chi rifiuta l'antagonismo, chi rifiuta il nichilismo, chi rifiuta il ribellismo deve indicare la strada di una democrazia economica che sappia alimentare e sostenere con forza la democrazia politica nuova, che io spero si allarghi in presenza di una ripresa che poggi su una nuova economia e quindi anche su una nuova democrazia. Queste questioni sono tutte legate tra di loro. Il lavoratore non può essere solo un salariato, deve essere anche un azionista, deve avere la possibilità di far contare le proprie azioni. Ecco perché è importante che in modo bipartisan in Parlamento si sono avanzate delle proposte da parte di tutti e due i poli per permettere ai lavoratori, oggi non è possibile, di assommare le loro azioni e farle contare, che si vada avanti per esempio almeno nell'indirizzo e controllo con persone, specialisti eletti, indicati dai lavoratori nelle loro aziende. Questo è un fatto molto importante che evolve il capitalismo, evolve il sindacalismo, evolve la democrazia. Se vogliamo combattere tutto ciò che è avvenuto nell'ultimo ventennio e che ha provocato non solo una verticalizzazione del potere appunto finanziario e conseguentemente ha originato anche la verticalizzazione del potere politico in tutte le società avanzate e in Italia la degenerazione è più che evidente davanti agli occhi di tutti, bisogna allargare la partecipazione. Per allargare la partecipazione la gente deve contare, deve allenarsi in questo agone, deve poter appunto responsabilizzarsi e perciò avere più dignità su lui, più personalità lui, più capacità di stare dentro i processi. Questo aiuta, ripeto, anche l'avanzamento del mercato e del capitalismo. Non è un fatto contro il capitalismo, tant'è che ancora si attarda su posizioni socialiste, ci sono ancora aree per esempio che agognano il comunismo, vedono questa posizione come il fumo negli occhi, perché se i lavoratori dovessero partecipare, dovessero integrarsi ancora di più nelle vicende economiche, sociali e quindi democrazia, a quel punto verrebbe meno il presupposto per l'antagonismo, che a quel punto è chiaro, certo, non ha più modo di esistere. Perché? Perché lui è protagonista, di solito chi si ribella, chi non è protagonista, chi sta ai margini, chi non conta nulla. Ecco, quindi un richiamo forte alla responsabilità di ciascuno. Affronterei il tema dei contratti, ma pregherei, professor Della Ringa, di spiegarci, di introdurre il tema dei contratti guardando all'importanza del dibattito contrattuale, primo livello, secondo livello, salari differenziati in questa fase e coinvolgendo poi il segretario Bonanni. Professor Della Ringa. Ma certamente il dibattito sul modello contrattuale si è acceso in queste settimane per iniziativa della Lega, che ha sollevato il problema della differenziazione dei salari nelle varie aree del paese, basandosi sul fatto che indubbiamente il costo della vita è diverso da regione a regione. Ma su questo bisogna fare una precisazione molto importante. Innanzitutto già i salari oggi sono alquanto differenziati sul territorio, anche gli recenti studi della Banca d'Italia confermano che grosso modo c'è una differenza nel costo della vita fra nord e sud fra il 10 e il 15%, ma più o meno è la stessa differenza che c'è nei salari di fatto. Ricordiamo infatti che la contrattazione integrativa, i superminimi individuali sono molto più diffusi nelle aziende del nord che in quelle del sud. Quindi il primo punto di partenza è che grosso modo già il sistema attuale garantisce di raggiungere quegli obiettivi che la Lega si prefigge. Quindi io non solleverei troppo la questione della differenziazione dei salari in una fase in cui i problemi da affrontare sono due e diversi. Il primo è quello dell'unità sindacale che è stato sollevato. È importante perché in una fase così difficile anche dal punto di vista occupazionale le parti sociali dovrebbero perlomeno condividere le regole della contrattazione collettiva. Il secondo problema, brevemente, è il seguente. Cioè, il modello io penso andrà benissimo in condizioni di regime quando le imprese realizzeranno produttività e si potrà sviluppare quel circolo virtuoso fra aumenti salariali e aumenti della produttività. Adesso è una fase in cui il modello va adattato alle circostanze piuttosto difficili che ci aspettano nei prossimi mesi, in cui, come è stato detto da tutti, c'è il pericolo di aziende che riducono la propria dimensione, alcune chiuderanno, cioè sarà un problema probabilmente di occupazione, di esuberi. Ecco, in queste circostanze evidentemente anche il problema del costo del lavoro va affrontato. Ecco, vorrei ricordare un unico e ultimo dato che è stato anche messo in luce da ricerche recenti presso il CNEL. Le imprese in questo momento hanno una caduta della produttività perché stanno trattenendo mano d'opera di cui praticamente in questa fase non hanno bisogno. Parte di questa mano d'opera viene finanziata dalla cassa integrazione, ma parte ricade sui bilanci delle aziende. Ecco, io direi che il modello contrattuale validissimo in sé, io penso, e si aspetta solo che la CGIL lo riconosca, perché è sufficientemente flessibile per adattarsi a tutte le circostanze. Ecco, bisogna capire ai prossimi rinnovi come conciliare la dinamica del costo del lavoro con la necessità di salvaguardare il più possibile l'occupazione. E su questo punto il ruolo di CISL e UIL, che hanno realizzato questo modello insieme con Confindustria, sarà fondamentale, cioè la capacità di adattarlo a queste difficili circostanze. Grazie della Ringa. Allora, Bonanni, come adattare il modello contrattuale all'esigenza di salvaguardare l'occupazione? Ma il sistema contrattuale che noi abbiamo concepito va in questa direzione. Perché? Perché affrontando la questione contrattuale, il nodo contrattuale, concentrandolo in modo importante a livello aziendale e territoriale, si punta ad avere più salario, ma punta ad avere più salario facendolo derivare appunto dal presupposto di una maggiore produttività dell'azienda, di una maggiore capacità dell'azienda di produrre qualità e quantità in termini maggiori. Quindi questo va nella direzione appunto di mantenere l'occupazione e di espanderla la nostra economia. Noi della CISL sono decenni che sosteniamo questo per più ragioni, per questa ragione, ma anche per avere un sindacato più in grado di gestire questi processi. Perché? Perché si compromette e scommette su che cosa? Sui fattori che riguardano la quantità e la qualità del prodotto. Infatti, per arrivare a questo e per avere più salario bisogna usare tutti gli spazi e gestire intensivamente tutte le possibilità attraverso il miglioramento delle professionalità, guardando ai fabbisogni, sapendo rispondere ai fabbisogni insieme all'impresa e declinando questo in termini anche di professionalità da attribuire, da sfruttare nell'azienda. Lo stesso vale per le flessibilità da gestirsi, lo stesso vale per gli orari, che oramai sono diventati sempre più importanti, non solo durante la crisi, come si è visto, ecco perché abbiamo tanto insistito sui contratti di solidarietà, ma soprattutto nella ripresa, perché i ritmi dell'andirivieni delle commesse sono molto diversi, è stato detto milioni di volte, anche se molti poi non sono stati conseguenti. Gli orari sono molto importanti, cioè tutti questi fattori li si può gestire solamente in azienda. Il potere sindacale quindi può alimentarsi solamente in azienda. Il potere salariale quindi può alimentarsi solo se in modo virtuoso si incontrano le esigenze tra lavoratori e imprese, e attraverso questo incontro può scaturirne una capacità maggiore di eliminare tutti i fardelli, tutte le incongruenze, tutte le sfasature di sistema che ci possono essere. E ecco, poi grazie. Collaborando di più si è anche più forti rispetto a un altro aspetto che per la verità si discute poco nel nostro paese, perché tu hai voglia a rendere produttiva la tua azienda se poi è in una sorta di deserto, dove certo. Mancano le infrastrutture, dove l'energia costa molto più che in altre parti, dove l'istruzione lascia il tempo che, dove la formazione e l'istruzione lascia il tempo che certo. Corre, dove la pubblica amministrazione appunto boccheggia, dove tutte le cose che sappiamo di un'Italia mal governata e mal capace di sostenere le ragioni della produzione. Quindi un rapporto con le aziende capace di guardare a 360 gradi a tutta la problematica aziendale. Dobbiamo fermarci per qualche secondo, ma vi anticipo che sono molti messaggi SMS che chiedono al segretario Bonanni di specificare anche la politica del sindacato verso gli statali, verso la pubblica amministrazione. È vero, come diceva il professor Della Ringa, che nelle aziende private c'è una differenziazione territoriale, questo non vale per gli statali, allora quale può essere per gli statali la risposta del sindacato? Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando dell'autunno, delle prospettive delle imprese, delle prospettive dell'economia, ne parliamo con Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, con Carlo Della Ringa, ordinario di economia politica alla Cattolica di Milano, con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ci siamo lasciati nella prima parte con molti sms al 349-238-6666, ricordo anche il numero verde 800-24-0024 per le vostre telefonate, molti sms che ricordano il fatto che non ci sono solo i lavoratori delle imprese private, ci sono anche gli statali che hanno problematiche diverse, non rischiano di perdere il posto di lavoro, non hanno un salario garantito, hanno un salario unitario su tutto il territorio nazionale. Problematiche diverse, come risponde la CISL a queste problematiche? Bonanni. Ma è questo un tema davvero complicato e anche scabroso, perché sono anni che assistiamo al ritorno della foresta nella città. Sembrava che nei primi anni 90 avessimo tirato fuori la politica dalla gestione diretta della pubblica amministrazione, invece quello che è accaduto, anche se quasi nessuno ha occhi per vedere, perché si preferisce poi scaricarla tutto sui lavoratori, insomma, del pubblico impiego, si sono ripresi in mano tutto, nella sanità, negli enti locali, e lo scempio è davanti agli occhi di tutti. Quello che accade alla sanità è la realtà più macroscopica, non fosse altro, che girano più soldi che in altre parti, ma lì si vede come una gestione diretta, non l'indirizzo e controllo che la politica deve esercitare, una gestione diretta come si auspicò e come si disegnò nei primi anni 90 non esiste più. E quindi se la politica è attenta alla gestione, e a quale gestione a quel punto, figuriamoci se vorrà, e si vede, gestire invece in modo opportuno, in modo ordinato, in modo pensato, in modo disegnato appunto, una massa enorme di persone che spesse volte davvero non sanno cosa fare. E molti che magari non hanno scrupolo, al posto di pensare a quello che devono fare, pensano ai fatti propri, in un sistema dove ciascuno pensa ai fatti propri. Sono anni che noi ci rendiamo disponibili ad aprire una discussione molto forte, abbiamo spinto a che anche nel pubblico impiego, e ci siamo riusciti, si abbia un sistema contrattuale di natura privata, tant'è che per la prima volta storico il pubblico impiego ha firmato lo stesso schema contrattuale firmato da Confindustria, dagli artigiani, dai commercianti e così via, per la prima volta. Però nel contempo un sacco di confusione sui fannulloni, e siamo a un anno e 4-5 mesi dal nuovo governo, e anche questo governo, ancora più colpevolmente dell'altro, secondo me, non sta gestendo nulla, solo qualche cappello tirato in aria, un po' di polvere, un po' di polverone in verità. Allora che cosa voglio dire? Voglio dire che un problema così ingestito da 15 anni e più, non che prima andasse molto molto meglio, ma comunque non ha raggiunto questi sistemi di degrado, ha bisogno di un'attenzione maggiore, di una cura maggiore, di una serietà maggiore, e ha bisogno di un coraggio anche maggiore. Ci sono molte persone nel pubblico impiego che hanno consapevolezza di questo, vogliono essere disponibili a un riposizionamento del pubblico impiego, eppure l'unica cosa che trovano di fronte è populismo e ancora populismo. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, secondo te quale sarà l'emergenza più forte nei prossimi mesi? Ma secondo me resta questa emergenza occupazionale, tra l'altro proprio parlando di occupazione, di modo per salvare posti di lavoro in autunno, che è il tema dei temi in questa fase. Si torna all'argomento dei contratti, perché mai come in questa fase probabilmente il sindacato è costretto a scegliere se puntare sugli aumenti contrattuali o decidere di destinare le risorse per salvare posti di lavoro. Faccio una piccola digressione, per così dire. Il mondo in questo momento ha la taglia zero. I tassi sono vicini allo zero, abbiamo visto ieri che i bot sono arrivati a un tasso vicino allo zero, i CTZ addirittura zero, l'inflazione è sotto zero, e la crescita è sotto zero, ma soprattutto appunto in periodi di deflazione probabilmente il sindacato, non so se ha preso atto in questa fase, che potrebbe trovarsi a rinnovare dei contratti a zero, per l'appunto, perché in momento di deflazione la tutela del potere d'acquisto è automatica, diciamo così, nel momento in cui la deflazione non c'è, anzi è negativa, aumenta il potere d'acquisto teorico dei salari. Quindi nell'apprestarsi a dover gestire un contratto a zero, deve prendere consapevolezza che le risorse servirebbero proprio a tutelare i posti di lavoro, non chiedendo aumenti. Ma questa è la sensazione che non sia ancora nel fuoco e nel mirino della discussione tra le parti sociali, mentre probabilmente potrebbe essere uno scenario non irrealistico nell'autunno. Ecco, Bonanni, è disponibile il sindacato a non chiedere aumenti sul fronte contrattuale? Ma ci sono delle regole appena costruite insieme, noi Convindustria e altre associazioni, ci sono criteri ben funzionanti, ben riconosciuti da tutti, e ci atterremo esclusivamente. Tutti sanno che la mia organizzazione su questo non bara, e nello stesso tempo è rigorosissima l'applicazione di ciò che si è stabilito. Il fatto di pensare più all'occupazione anziché altro sta nella nostra testa, a nessuno è sfuggito l'insistenza, e abbiamo migliorato moltissimo, che c'è stata da parte nostra nell'uso dei contratti di solidarietà, e la insistenza nei confronti del governo che ne migliorasse appunto le capacità di copertura rispetto ai lavoratori e alle aziende. Io devo essere sincero, ho molto apprezzato il comportamento di Convindustria, che ha spinto alla pari nostra appunto verso una soluzione del genere, comprendendo insieme a noi che in questo momento attendere la ripresa significa però prepararci meglio ad avere un buon rapporto tra imprenditori e lavoratori, a avere una pace sociale nelle aziende, imparare meglio a cooperare, e tant'è che quando si usano i contratti di solidarietà bisogna stare attenti fino all'ultimo minuto da utilizzare pur di non perdere nessun posto di lavoro, ma a quel punto sfruttare intensivamente quelle commesse che magari inferiori si hanno. Quello che sta accadendo, secondo me, molti lo stanno sottovalutando. Io stesso ho voluto partecipare, ho avuto la possibilità di partecipare non solo a innumerevoli assemblee di lavoratori, ma anche a innumerevoli assemblee di imprese, erano quasi tutte piccole e medie, in molte regioni, segnatamente quelle a più forte struttura industriale. E ho notato che c'è stato un cambiamento di tutti nel linguaggio, nel rapporto, nel modo di intendere le relazioni industriali. Quello che sta succedendo in questa Italia e in questo versante non appare nella sua storia, e non appare neanche a confronto con il comportamento, questa è la mia opinione personale, della classe dirigente politica. Quindi secondo me nei prossimi giorni, nei prossimi mesi dobbiamo continuare molto su questa parte. Spero che anche gli altri che sono stati esclusi fino adesso, che si sono autoesclusi fino adesso, abbiano il coraggio di entrare in questa partita decisiva per l'economia del paese, ma anche per il futuro delle relazioni industriali. Ed è importante preservarle non solo per avere più attenta la classe politica, ma per evitare che ci siano anche queste cose che, per la verità, non sono solo cose agostane, ogni volta riaffiorano, come per esempio il ricorso alla invidia sociale, in questo caso attraverso la richiesta di gabbie salariali, che si sa, se sono gabbie salariali bisogna imporle, chi le può imporre? Attraverso la legge il governo, che ritornare all'indietro anni luce rispetto ai progressi che abbiamo avuto nelle relazioni industriali, nei progressi che abbiamo avuto anche in democrazia nel nostro, nel nostro paese. Le parti fanno bene a oliare bene i rapporti tra di loro, le relazioni industriali, a prendersi le proprie responsabilità. Forse bisognerebbe avere anche il coraggio di coniare delle formule nuove, di non ricorrere sempre alle formule vecchie, che poi le formule vecchie fanno ricordare anche momenti storici diversi. Indubbiamente siamo in un momento molto complesso e soprattutto nuovo rispetto al passato, e si richiede in questo momento appunto dei comportamenti nuovi e certamente costruttivi. Massimo dalla provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, intanto volevo dire una cosa all'introduzione. Io sono rappresentante sindacale della FIM CISL, volevo dire al segretario Bonanni, che è il mio segretario, che la maggioranza della FIM CISL non condivide la linea sindacale del segretario Bonanni. Questa è una protesta formale ed educata, ma volevo entrare nel merito. Contrattazione di secondo livello. Secondo me la contrattazione di secondo livello non è possibile farla, perché? Perché è troppo capillare, specialmente io sono veneto, no? Non sarebbe possibile contrattare in tutte le aziende, no, una contrattazione di secondo livello. Lo spazio, cioè mi spiego, lo spazio di contratto di secondo livello è troppo ampio per gli operatori sindacali, quindi non potrebbero andare azienda per azienda a contrattare il contratto di secondo livello. Ma questo perché sono piccole aziende soprattutto. Certo, certo, bravissimo. Bravissimo, perché le aziende sono piccole, perché non può un operatore sindacale andare azienda per azienda e andare a contrattare questo famoso contratto di secondo livello. Questo è il problema. La ringrazio. Allora, grazie. Segretario Bonanni, indubbiamente c'è dialettica anche nella vostra confederazione, quindi è comprensibile che ci siano anche posizioni diverse, ma su questo tema delle piccole imprese, l'Italia ha una struttura economica basata sulle piccole imprese. Il secondo livello è veramente difficile da applicare? Ma intanto voglio salutare questo amico che dice di essere iscritto alla CISL. Se andate a pescare, proprio uno dei 400.000, l'unico dei 400.000 iscritti alla FIM CISL. Beh, non l'abbiamo pescato, ha telefonato lui, che non condivide la linea della FIM e della CISL. Il Veneto, la FIM del Veneto, a fortissima maggioranza ha sposato questa linea, tant'è che è andato avanti, anche contrattualmente è stato avanti. Quindi io, se è dalla CIS davvero questo amico, gli voglio dire che lui sa perfettamente che quando non si riesce a gestire aziendalmente la contrattazione, la nostra proposta è di farla territoriale, e tant'è che i vantaggi che abbiamo chiesto prima al governo Prodi e poi al governo Berlusconi, al governo Prodi di decontribuire per favorire la contrattazione di secondo livello e a livello aziendale e a livello territoriale, lo stesso è successo con Berlusconi, che ha tagliato 3 volte su nostra richiesta le tasse sul salario di produttività o aziendale o territoriale. Sta a lui, se è RSU davvero e se è davvero iscritto alla CISL, utilizzare questo spazio, perché altrimenti mi verrà a dire che l'unica cosa che bisogna fare è quella di avere un contratto nazionale, magari fatto anche per legge. La contrattazione è libera contrattazione tra le parti. Ecco, l'aberrazione a cui taluni arrivano è questo, che a quel punto, di fronte a tante impossibilità o pretese impossibilità, appunto si arriva a costruire che cosa? Un qualcosa che dall'alto si ammannisce al basso, ed è la negazione del sindacalismo e la negazione delle relazioni industriali. È esattamente ciò che alcuni chiedono quando chiedono le gabbie salariali, che ci sia qualcuno che decide per altri. E invece, finché avremo la possibilità, la libertà e l'autonomia di stabilire insieme patrizioni convenienti a tutte e due le parti, non solo avremo più dignità, avremo più forza, ma avremo più capacità appunto di garantire gli interessi reciproci dei lavoratori e delle imprese. Quindi non si scoraggiasse, se è davvero un sindacalista se ne occupasse, ha molti strumenti per farlo, si deve misurare con la sua realtà, non con realtà altrui, non deve scaricare su altri cose che lui invece deve risolvere. Eccoci per gli ultimi 10 minuti del nostro colloquio con Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Luigi da Pisa, buongiorno. Buongiorno a voi. Si dica. Allora, io vorrei dire una cosa. Il sindacato 30 anni fa era molto forte e a volte difendeva anche l'indifendibile. Oggi è molto debole e non riesce più a difendere nessuno. Faccio un esempio. 30 anni fa ci facevano fare sciopero per persone che facevano comportamenti scorretti in fabbrica, che erano da licenziamento immediato, eppure ci facevano fare sciopero. Oggi a persone vengono rinnovati contratti di 3 mesi per 3 mesi, anche per 10-12 volte, e non c'è un sindacato che interviene per dire dopo diverse volte vediamo di fare un contratto definitivo, non ad aziende in crisi, ad aziende che producono. Poi vorrei dire una cosa al vostro giornalista del 24 ore che dice che quest'anno andrebbero rinnovati contratti a zero. Io gli vorrei dire che negli ultimi 15 anni sono stati rinnovati dei contratti col famoso tasso programmato, che era sempre inferiore al tasso di crescita e di inflazione veritiera. Quindi la Confindustria ha sempre già tirato la coperta dalla sua parte. So che il momento è triste, è quello che è, e quindi va fatte determinate considerazioni, però cerchiamo di essere un po' equilibrati nelle cose. E l'ultima cosa, le gabbie salariali purtroppo esistono già. Nel Sud nessuno è difeso, specialmente nel piccolo e nel privato. Grazie Luigi per questa testimonianza e anche per questa polemica. Alberto Rioli, e chiederei poi anche al professor Della Ringa per concludere una domanda a Raffaele Bonanni. Alberto Rioli. Sì, la mia era una provocazione, perché però partiva dai numeri che ci sono sul tavolo adesso. Il numero che c'è adesso sul tavolo delle parti sociali è quello di un'inflazione a tasso negativo in 13 città. E sostanzialmente a zero, quindi se il salario nazionale deve servire a tutelare il potere d'acquisto, serve un salario nazionale a zero. Questo in linea teorica, naturalmente, però serviva a stimolare la discussione chiedendo a un sindacalista se effettivamente si sta discutendo di una stagione che potrebbe essere obiettivamente magra da questo punto di vista, ma a maggior ragione caricherebbe ancora di più le aspettative, come è giusto peraltro, sul salario aziendale, che dovrebbe servire davvero riequilibratore poi della capacità di reddito dei lavoratori. Quindi questo era il senso della mia domanda. Se posso approfittare, prego, ancora un attimo sul pubblico impiego, c'è una proposta di mutuare il sistema francese, di aumentare le retribuzioni dei pubblici dipendenti nelle aree metropolitane. È una cosa che fanno appunto in Francia perché hanno valutato che il carico di lavoro e di produttività richiesta è molto superiore nelle aree ad alta densità di abitanti rispetto alle aree a minor densità di popolazione, dove il servizio è meno richiesto. Se ne sta discutendo, non so, sarei curioso di sapere che cosa ne pensa Bonanni. Abbiamo in linea appunto Raffaele Bonanni. Io lascerei stare le polemiche sul sindacato, ognuno è libero ovviamente di esprimere le sue posizioni e le sue critiche. Stiamo sul concreto, su questo fronte della trattativa sindacale, dei contratti e dei contratti del pubblico impiego. Raffaele Bonanni. Sulla vicenda del pubblico impiego, ripeto, bisogna avere un luogo dove ci si confronta, e mi pare che negli ultimi tempi a malapena siamo riusciti a rinnovare i contratti, e tutta questa foga che si mostra avere è servita solamente a attenuare persino la spinta che noi avevamo messo, per esempio, per adeguare le linee contrattuali del pubblico impiego a quello del privato. Poi le questioni di Rioli possono essere anche possibilità che si possono raggiungere attraverso la contrattazione di secondo livello, che esiste anche nel pubblico impiego, per attagliare le realtà appunto alle condizioni locali. Mi pare persino ordinario quando la controparte ha coscienza di ciò che vuole e ha contezza di quello che vuol conseguire, cosa che io invece penso che ancora non ci siamo, anche per responsabilità, voglio dire, non solo nostra ma anche dei media, che troppo facilmente vanno al seguito del ricorso all'iperbole, che spesse volte in questa vicenda del pubblico impiego domina il dibattito, insomma. Professor Della Ringa. certamente i contratti zero sono una provocazione utile per aprire la discussione. L'importante è che i tavoli negoziali si aprano, perché se non si dovessero aprire si darebbe ragione a quelli che stanno boicottando l'accordo appena concluso. Poi nell'ambito dei negoziati io penso che esistano già all'interno dell'accordo degli strumenti di flessibilità, ne cito solo tre e chiederei proprio a Bonanni se la CISL è disponibile anche a aprire il confronto su questi. Il primo, l'accordo non è che dica necessariamente come devono essere scaglionati gli aumenti. Il 2010 sarà molto brutto, allora quali aumenti prevedere per il 2010? Secondo, c'è l'elemento perequativo. Per le aziende che non fanno contrattazione, ma di aziende che faranno contrattazione per aumenti salariali ce ne saranno molto poche, quindi l'elemento perequativo che dovrebbe andare a quelli che non fanno contrattazione dovrà essere decisamente molto contenuto. Terzo elemento, nell'accordo c'è una previsione di clausole di uscita, molto controllate, molto soggetto all'approvazione degli organi nazionali, ma è una modalità per vedere se in certi territori, in certe aziende dove la crisi è più forte, si possa fare anche delle concessioni che possono essere utili per mantenere i livelli occupazionali. Sono tre esempi di elementi di flessibilità che, senza dare zero contratti, però possono essere coniugati con la salvaguardia dei posti di lavoro. Raffaele Bonanni, prego. Sì, il sistema contrattuale che abbiamo concepito è un sistema che vuol far fronte alla realtà non certo omogenea, molto complessa, di un paese grande e fatto di tante realtà merceologiche molto diverse tra di loro. Il contratto serve proprio a questo. Faccio un esempio: il primo contratto che stiamo stipulando, spero che nei prossimi giorni si possa definire del tutto, ma pare che la questione essenziale che stiamo discutendo adesso in questo momento pare abbastanza acclarata, e cioè di stabilire il quid contrattuale, i soldi. Beh, non c'è molta difficoltà. Come si sa, per chi studia, chi sta affrontando questo problema, tra da noi e gli imprenditori riguardo agli aumenti contrattuali, che lì sono abbastanza consistenti, non fosse altro che per esempio l'alimentare è uno dei pochi settori in Italia che sta andando bene, con un più 4% addirittura di guadagni da parte dell'impresa. Poi ci sono altre aziende, altre realtà merceologiche che vanno molto peggio, non vanno bene, come per esempio l'alimentare, e lì si troveranno delle soluzioni diverse. Il sistema contrattuale è concepito proprio in questo modo. Poi Laringa diceva, il professore, di questa via d'uscita, di questi accordi in deroga al contratto nazionale, in deroga appunto lo riterranno le parti stesse. Certo, se in un territorio, in un settore, un distretto, una realtà di quel comparto si trova in forte difficoltà, ma chi chiede aumenti a fronte della possibilità perfino di far saltare posti di lavoro in quel momento per una difficoltà troppo forte che sta reggendo l'azienda? Nessuno. Ripeto, come hanno fatto gli amici sindacalisti tedeschi, che sono stati molto attenti su questo, hanno fatto accordi locali, aziendali, pur di non permettere delocalizzazioni o addirittura di compromettere l'equilibrio occupazionale. Noi l'abbiamo fatto sempre, lo faremo, non c'è alcun problema. Il sistema contrattuale che abbiamo concepito quindi è un sistema che si adatta naturalmente, rafforza naturalmente ogni difficoltà va incontro a ogni difficoltà e va incontro a ogni opportunità, e questo è assolutamente e io spero però che tutti quanti ci diano una mano, perché voi lo sapete come funziona, e quando si va verso un fatto nuovo, e soprattutto quando ci sono alcuni che si oppongono anche, questa realtà ha bisogno, questa condizione ha bisogno di essere maggiormente custodita. Mi appello ai media, se entrassero più nel merito talvolta di inseguire i litigi che ci sono, probabilmente creeremo una condizione di maggiore consapevolezza di tutti i lavoratori. Noi abbiamo un consenso davvero molto forte e si vede su quello che abbiamo fatto e così via, ma ci sono anche sacche di lavoratori che spesse volte o non hanno compreso bene oppure sono ancora attirate dal vecchio, è un fatto umano anche, insomma, no? Grazie, cioè, Bonanni, dobbiamo fermarci qui ed è quello che abbiamo cercato di fare oggi, quello di fare un'informazione, di andare un po' alla radice dei problemi, di cercare di affrontare queste problematiche certamente rilevanti, importanti, direi decisive per il futuro del paese, cercando di affrontarle con concretezza, senza spunti polemici, ovviamente dando anche spazio a coloro che possono avere delle idee diverse, perché anche dalle idee diverse, dalle idee contrastanti poi nasce certamente qualcosa di positivo, se tutti hanno una responsabilità e sono convinti di accogliere questa responsabilità giocando con strumenti nuovi, con forze nuove, con quel coraggio a cui richiamava ieri il governatore Draghi, che in questa fase è ancora più necessario di prima. Io ringrazio il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, che ci ha accompagnato in quest'ora e che ha illustrato la strategia del suo sindacato di fronte all'autunno. Ringrazio Alberto Rioli e Carlo Dallaringa che mi hanno aiutato in questo viaggio. In regia Giorgio Mulei, redazione Guido Scotti, l'appuntamento è per domani.